Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti a Mebius. Ciao Chiara, da dove cominciamo? Ciao Federico, stasera vi parlo di Suzuki. La motocicletta? No, niente no? di più lontano. Niente di più lontano. E io invece vi parlerò del dopo Expo tecnologico. Expo ormai è già passato. E allora partiamo con la Suzuki. Orecchie tese, Federico e ascoltatori, vorrei farvi sentire un suono che mi hanno mandato. Prego, regia. Volete riascoltarlo? Sì, l'ho ascoltato. Ecco, dimmi, cosa ti sembra? Ecco, siccome sapevo che mi avresti fatto questa trappola, mi sono un po' informato. Sembra che possa essere uno di quegli spazzolini elettrici che usano le giraffe. Sembra denti. Più... Non ti sembra un po' più una lambretta smarmittata? Sai che hai ragione. Allora, fermi. È una lambretta. Risentiamolo. Qui. E poi parte, tu dici. Potrebbe essere una lambretta. Potrebbe essere proprio una di quelle, le prime. Sì, proprio. Le scatolette quelle le chiamavano. Che adesso non ci sono più. Va bene. Allora, Omar Rota Stabelli, buonasera. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Dunque, lei, si prenda le sue responsabilità, ci ha mandato questo suono. Ora ci deve pure spiegare che cos'è. Se vuole la presentiamo, se no la presentiamo dopo. Ci dica lei cosa preferisce. Allora, no, le spiego di cosa si tratta. Ci spieghi. Allora, non sono dei motocicli, ma sono delle vibrazioni emesse dal maschio di un moscerino e che sono trasmesse attraverso il frutto alla femmina per convincere la femmina ad accoppiarsi. Va bene, allora adesso la presentiamo. Allora, lei è ricercatore evoluzionista molecolare presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige e studia questi insettini che si chiamano, per la precisione, Drosophila Suzuki, e già il nome vi farà capire, che è arrivato dalla Cina con furore e col furgone. Sì, è un moscerino molto, molto interessante per due ragioni principali. Una, come ha detto lei, perché è arrivato molto recentemente dalla Cina e noi attraverso studi genomici abbiamo scoperto che rispetto agli altri moscerini della frutta, che sono molto comuni anche da noi, questo è preadattato a un clima temperato tipico europeo, quindi è in grado di svernare all'aperto nei nostri inverni, sopravvive senza problemi alla neve e questo lo rende molto adattabile al nostro clima e infatti in pochissimi anni è riuscito a riempire tutte le nicchie ecologiche disponibili sia in Europa che negli Stati Uniti. Questo perché? Perché si è sviluppato in Cina sulle condizioni montagne. Di temperatura. Sì, noi abbiamo calcolato che si è speciato dalle altre, dalla sua specie sorella, intorno a 7 milioni di anni fa, proprio nel momento in cui l'altopiano tibetano cominciava ad alzarsi, si creavano i monsoni regolari, nonché un clima proprio tipicamente temperato. E infatti da qui nasce anche una battuta che abbiamo noi, che ha fatto 7 milioni di anni in Tibet. Come Brad Pitt. Come il film. Certo. Ma in 7 milioni di anni è arrivato solo adesso, recentemente. Sì, noi abbiamo tracciato l'evoluzione dell'invasione e la possiamo che è cominciata intorno a 7-8 anni fa e abbiamo anche tracciato il punto d'entrata più probabile in Europa, che è stato il porto di Marsiglia, con la frutta che proviene dall'Asia. Infatti questo container refrigerati o camion refrigerati, ecco perché diciamo anche che è arrivato dalla Cina col furgone, non solo con furore. È strano però che ci abbia messo così tanto, cioè se è arrivato al porto di Marsiglia con una nave poteva arrivarci anche negli anni 30, alla fine dell'Ottocento, invece casualmente questa cosa è venuta solo adesso. Probabilmente in concomitanza con nuove tratte mercantili della frutta dall'Asia. Certo, sì. Probabilmente è questo. Certo. La grossa differenza con Drosophila melanogaster, che è appunto il moscerino della frutta che noi siamo abituati a vedere d'estate sorvolare sul nostro cesto di frutta. Ecco, ci sono delle differenze importanti. Allora, primo, resiste agli inverni e non è banale. E poi attacca la frutta anche quando non è troppo matura, cioè anche quando è ancora sull'albero. E questo noi, per le nostre coltivazioni, per i nostri frutteti, è molto molto danneggiante. Sì, in generale questi moscerini, le drosofile, sono attratti dall'alcol, dalle fermentazioni. Dall'etilene, ecco, che emette la frutta magari più matura. Sì, infatti sono molto comuni durante le vendemmie, per esempio, volano sempre sopra il mosto. Drosophila suzuki invece ha avuto dei cambiamenti a livello genomico, per cui ha perso alcuni geni e ha guadagnato altri geni che codificano per proteine che le permettono di annusare meglio la frutta fresca. E noi abbiamo tracciato l'evoluzione di tutti questi geni nel suo genoma e siamo arrivati a identificare una lista di recettori che tra l'altro poi useremo anche per migliorare le trappole in campo. E uno dei più interessanti, delle più interessanti mutazioni che abbiamo trovato è in un recettore che riconosce l'etilbutirato, che il nome è complesso, ma è un composto che ricorda molto l'arancio, nonché usato anche come uno dei composti di alcune bevande, come il martini, e infatti da questo pensavamo di chiamare questo gene, che ha una nuova funzione in Drosophila suzuki, proprio no martini, no party. Però siete proprio dei simpaticoni in laboratorio, vi divertite. In Drosophila è un classico. Eh sì, c'è dappertutto. Vari nuovi geni in un modo molto particolare. La Drosophila, voi biologi la usate in lungo e in largo perché si riproduce, ecco, molto rapidamente. Quanto vive una Drosophila? Ma può arrivare a vivere alcuni mesi. Ah, però. Soprattutto in inverno la Drosophila suzuki riesce a vivere in genere più delle altre, per cui riesce a svernare. Non la ammazza nessuno. E il problema è che, appunto, diffusamente chiamata anche Drosophila dei piccoli frutti. Perché? Perché attacca anche i piccoli frutti, quindi i frutti di bosco, che appunto in Alto Adige voi avete e coltivate, ma anche, ad esempio, la frutta che ha una buccia anche sottile, quindi non gli agrumi, ma ad esempio le ciliegie, l'albicocco. Eccotela lì. È la mia collega, bisogna citarlo. Eh sì, perché mi sento particolarmente colpita. È una preoccupazione che possa cominciare a colpire l'uva, soprattutto l'uva da tavola, e lì sarebbero i danni molto più ingenti, soprattutto per l'Italia, che è un produttore, uno dei più grandi produttori mondiali. Certo. Però, insomma, Rotta Stabelli, voi non è che siete lì mano in mano, qualcosa state facendo, no? Che cosa si può fare? Che trappole avete inventato? Allora, ci sono delle trappole specifiche per questo insetto, si chiamano Drosky Drink. E anche qui vi siete sbizzarriti, Drosky Drink. Sono state proprio sviluppate da noi, dal nostro istituto, sono un blend di alcuni composti, tra cui vino, dell'aceto di mele. Stiamo cercando. È un vero e proprio cocktail. Sì, un cocktail, tra l'altro gradisce il vino, un vino particolare, un vino di una certa qualità, perché contiene degli attrattivi particolari. Cioè, non gli piace il vino in cartone, ci fa capire. Sì, deve essere un vino un po' più buono. Un po' più buono. Vabbè, ma dove lo mettete? Allora, questo va messo in campo sia durante la maturazione dei frutti, ma può anche essere messo prima, per prevenire, per tenere molto bassa la popolazione. Cioè, mettete delle ciotoline con dentro questo liquido? Sono una specie di bottiglie di colore rosso, perché sono attratte anche dal colore, dal rosso, e niente, entrano, poi affogano nel... Sono attratte. Cioè, se loro finiscono in un liquido non riescono ad alzarsi, a decollare, diciamo. La tensione superficiale, per cui restano attaccate. E questo è uno dei delle linee di ricerca, ma ce ne sono svariate. Anche l'utilizzo e lo studio delle vibrazioni viene usato per in futuro provare a confondere sessualmente la comunicazione tra maschio e femmina, in modo che si possa impedire l'accoppiamento dei moscerini. Ecco, a proposito di vibrazioni, sono quelle che abbiamo sentito all'inizio. Io farei risentire queste e poi anche un altro suono che lei ci ha mandato, così ci dice anche un po' l'importanza di queste vibrazioni e di come pensate di utilizzarle. Proviamo. Questa è la lambrettina un po' smarmittata e poi sentiamo l'altro. Qui abbiamo selezionato un micropassaggio che è una specie di rantolo, clacson della lambretta smarmittata, ecco. Cos'è? A cosa serve, insomma, Rotta Stabelli? Perché emette questa vibrazione così un po' più stridula? Allora, abbiamo scoperto che questa vibrazione più stridula, in gergo tecnico si chiama toot, però somiglia un po' al clacson della lambretta, ragione. È specifico della Suzuki, nonché degli altri moscerini, che sono caratterizzati da una piccola macchiolina sull'ala. Non sappiamo ancora perché, però sappiamo che la distingue per esempio dalla sua cugina molto famosa, la Drosophila melanogaster, che ha solo il suono regolare tipo l'ambretta. Ma come avete fatto a registrare delle vibrazioni così che a noi risultano non ascoltabili, insomma non riusciamo a sentirle? Allora, queste sono vibrazioni particolari che sono trasmesse attraverso la superficie del frutto. Sono coordinate nei nostri laboratori da Valerio Mazzoni, che è uno dei primi che sta facendo queste registrazioni in diversi tipi di insetto. Lui utilizza un laser che punta verso la frutta e riesce a registrare queste vibrazioni che altrimenti noi non riusciremmo assolutamente a percepire, mentre sono percepite benissimo con altri sistemi, non con le orecchie, perché non hanno le orecchie gli insetti, ma sono percepite non solo dal moscerino, ma da bene o male una larga parte di insetti. Sì. Questi suoni sono molto importanti perché sono specie specifici, per cui vengono utilizzati da ogni specie al suo, diciamo, sono peculiari. In modo da non creare confusione e di avere una specificità dell'accoppiamento. Noi vorremmo usarli per poter confondere, diffondendo dei suoni analoghi, per esempio in serra, confonderli sessualmente in modo da impedire il loro accoppiamento, come già si fa utilizzando i ferormoni per delle farfalline. Ecco, però con questo sistema che limita l'accoppiamento vuol dire che guardate un po' avanti, no? Cioè create una situazione per cui non ci sono più nuove generazioni, però quello che c'è adesso per esempio resterebbe, o lo aggredite con le bottiglie, com'è che fate? Aggrediamo con le bottiglie anche con dei trattamenti fitosanitari. Ok, cioè c'è una tattica mista. È una pratica mista, quindi una lotta di tipo integrato. Si cerca di ridurre sempre di più l'utilizzo di fitosanitari, certo. Però in caso di emergenza devono essere usati. Per forza, perché se no vi fate un'annata distruttiva. Soprattutto anche alla luce dei prossimi, veramente nei prossimi 10 anni, riuscire a determinare nuovi tipi di controllo che siano anche il più ecologici possibile. E anche evitando insomma che si diffonda, perché... Fra l'altro è in tutta Italia, Sì, in tutta Italia, male. Dipende dal clima, lei non tollera il clima troppo caldo, anzi diventa sterile sopra i 32 gradi, qui in Sud Italia sono più protetti solo durante l'autunno, per esempio, in estate fa troppo caldo. Senti, il Trentino adora tutte le stagioni, perché si riesce a spostare dalla valle al monte. Senta, abbiamo parlato di lambretta, però questa si chiama Suzuki, che è una moto, ma da dove arriva quel nome lì, Suzuki? È un forse uno che l'ha scoperta? È stata scoperta in Giappone e è stata intitolata a un entomologo famoso. A un entomologo che si chiama... Sì, Suzuki è un cognome. È un cognome diffuso in giapponese. Va bene. Allora, grazie Rota Stabelli, buon lavoro, ci faccia sapere se ci sono novità sulla lambretta. Sì, va bene, grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Expo ormai è arrivato, anzi è già domani, potremmo quasi considerarlo finito, questo è un po' esagerato. Noi stiamo per parlare del dopo Expo. E ha senso farlo adesso, soprattutto per quanto riguarda i temi che ci sono più vicini, insomma, in questa trasmissione, quelli di tipo tecnologico, perché ci sono delle grandi opportunità e dobbiamo avere il tempo di ragionarci, perché certo Expo è un evento che si distenderà per diversi mesi, ma poi non sono anni, e alla fine del 2015 dovremo avere le idee il più possibile chiare. Per parlare di questa cosa ho qui con me questa sera Piero Galli. Buonasera Galli. Buonasera, buonasera. Direttore generale divisione eventi e entertainment di Expo, e Andrea Costa. Buonasera, buonasera Costa. Buonasera, buonasera. Responsabile per Telecom Italia del progetto Expo. E direi di incominciare da qui. Perché? Perché sotto questa grande spianata, sulla quale adesso incominciamo a vedere bene, direi, i padiglioni, insomma, come sarà la struttura di questa manifestazione, però sotto quella grande spianata c'è un oggetto tecnologico particolarmente sofisticato, particolarmente avanzato, che Telecom è riuscita a mettere in piedi, e che forse perché sta sotto non se ne è parlato ancora a sufficienza. Però cominciamo da qui e proviamo a descrivere che cos'è questa cosa, questa piattaforma che servirà per tutto Expo, per le infinite esigenze di tipo telematico, ICT, che ci saranno in questa mostra. Però certo è un grande potenziale che dobbiamo riuscire a trasportare anche dopo. Che cosa fa, ma soprattutto che potenzialità ha, Costa? Bene, grazie. La piattaforma è sicuramente un modo per esprimere attraverso la tecnologia una modalità nuova per interagire, in primis sui temi dell'Expo, che sono un tema importantissimo, un motivo importantissimo di discussione e collaborazione. Quindi questo è sostanzialmente il motivo della piattaforma. Oggi per interagire, collaborare e discutere sostanzialmente si usa in maniera massiva la tecnologia. Cosa fa questa piattaforma? Permette alla tecnologia di essere utilizzabile dal maggior numero di persone possibili in un tempo determinato, un po' sostanzialmente quello che si cerca di fare in tutte le cosiddette smart city. Quindi, al di là di tutta la tecnologia impiantata sul sito dell'evento, questa piattaforma, attraverso il nome di centrale di comando e controllo, permette di gestire tutta la complessità tecnologica installata in campo con delle persone e soprattutto con l'utilizzo della rete e del cloud computing. Questo è il primo grande evento gestito totalmente attraverso le infrastrutture del cloud computing di Telecom Italia. Che cosa vuol dire poi in soldoni? Che noi stiamo sostanzialmente predisponendo la prima vera tecnologica smart city, perché ricordiamoci che i numeri di Expo sono importantissimi in termini di visitatori e di coloro che utilizzeranno la tecnologia, per gestire tutta questa tecnologia. Che cosa mi viene in mente per il dopo Expo a partire da questo? Mi viene in mente che noi stiamo gestendo una quantità di informazioni irripetibile da un certo punto di vista. Le segnalazioni che ci verranno da Expo, tutto quello che è l'ecosistema digitale chiamato anche 015, che mette insieme tante realtà del territorio, tutte le segnalazioni che verranno dai social network e quindi delle persone che vivranno la Expo. Nel caso nostro, per esempio, tutti i dati ovviamente resi anonimi degli utenti della Telecom Italia che Mobile, saranno di lì. Team, che saranno lì, certo. E in più tutte le informazioni sui contenuti dell'Expo che ci vengono dal portale di Expo. Questa grandissima mole di dati può essere gestita con intelligenza. Oggi esistono dei motori di correlazione che sono in grado di mettere insieme tutte queste informazioni in maniera intelligente e, ad esempio, dare informazioni integrate sulla viabilità in tempo reale, rendendole quindi fruibili anche ai visitatori dell'Expo. Oppure di capire se l'evento nel padiglione di un certo paese è appealing e quindi fare una sorta di passaparole che può essere immediatamente globale. Oppure, per esempio, prendere gli strumenti di questa grande centrale di comando e controllo e renderli più fruibili anche attraverso terminali di diverso tipo e quindi rendere più facile la gestione della smart city. Io penso che smart voglia dire in un qualche modo essere facilitati nel fare le cose e quindi la riduzione della complessità tecnologica portata alle pubbliche amministrazioni potrà essere un lascito per le future città che vorranno adottare questa metodologia. Si parla tanto di banda larga, questo è un contenuto anche per valorizzare quello che la banda larga può fare per il paese. E quindi certo, Piero Galli, questo scenario che ha delineato Costa, e cioè di Expo come una struttura talmente ampia che è vero, assomiglia assolutamente come problematiche a quelle non di una grandissima città, però insomma con il numero di persone che arriveranno, di un habitat piuttosto denso con veramente tante funzioni, quindi è un'ottima simulazione di molti aspetti che dovranno e potranno essere quelli di una smart city. Però cosa ne pensa lei di questa possibilità di non perdere un patrimonio di questo genere nel dopo Expo? Stanno arrivando diverse notizie, sappiamo, ed è giustissimo, che una parte di questo spazio sarebbe molto bello fosse a verde, però poi si parla dell'Università di Scienze qui a Milano, dell'area di Città Studi, che certo raggruppa biologia, fisica, agraria, medicina, poterla trasportare lì. Non so, però lì sotto certo c'è un patrimonio che sarebbe bene non farlo, non, come dire, utilizzarlo meno di quello che può dare. Ma tenderei a tenere distinti i due ambiti, cioè cosa succederà dell'Expo in termini di superficie, quindi l'utilizzo che adesso è in corso di discussione, in realtà il dibattito è cominciato già da parecchio tempo. Sì. E credo che troverà anche una serie di ulteriori evoluzioni mano a mano che poi l'Expo verrà anche visitato, perché a questo punto ci sarà una quantità di idee e di stimoli che nel toccare in mano non c'è dubbio. Allora non c'è ombra di dubbio che ad oggi il sito espositivo, con quella che è stata la contribuzione alla costruzione dal punto di vista tecnologico di questa Smart City, la qualifichi come il soggetto e l'ambito più infrastrutturato d'Italia e più avanzato dal punto di vista della concentrazione delle tecnologie che abbiamo dovuto realizzare. È stato voluto, non è un caso che i primi partner che abbiamo cercato di avere a bordo fossero quelli tecnologici e non è un caso che il primo partner che avevamo indirizzato fosse quello delle tecnologie di telecomunicazione con tutti i suoi annessi e connessi, che ha visto Telecom Italia essere il primo partner di Expo. La realtà è che stiamo gestendo e ci troviamo a dover gestire già oggi, là è una Smart City, tanto per dare un'idea, oggi ci lavorano quasi 5.000 persone dentro sul sito espositivo, con una quantità di mezzi e di meccanismi di accesso e di controllo che sono sofisticati. Ma quando avremo il nostro un sito espositivo, 60 giorni oramai all'apertura, funzionante, noi ospiteremo fino a un picco di 250.000 persone. Sono tante. 250.000 persone sono l'equivalente della città di Messina. Messina è l'ottava città più grossa in Italia, quindi nella realtà il meccanismo, il modello di Smart City che abbiamo voluto indirizzare è proprio tarato per essere utilizzabile e fruibile praticamente da qualunque tipologia di città che abbiamo oggi presente in Italia. Ed è questo un po' il ragionamento che farei per vedere qual è l'eredità da lasciare dal punto di vista della tecnologia, ed è il motivo per cui tenderei a tenere le cose separate, perché tra virgolette è incidentale il fatto che ci sia tanta fibra che scorre nei sottofondi dell'Expo. Quello che rileva è il modello che è stato realizzato. Certo, la gestione, la governance di questa cosa. È la governance e la contribuzione delle tecnologie, perché adesso si diceva quanto c'è sotto. In realtà sull'Expo ci sono tre cose. C'è un livello che è sottostante, un livello che è di superficie, anche perché ci sono una quantità di devices che sono abilitati e utilizzati ai vari livelli e tipologie di necessità, non ultimo anche quello dell'intrattenimento, e poi c'è quello in cielo, se vogliamo, che è quello della nuvola, no? Allora, è il coacervo di questi tre elementi che poi trova anche sostanza in un centro di comando e controllo fisico, ma è stato lo sforzo di integrare offerte sia di carattere pubblico che di carattere privato. Privato perché è stata un'integrazione di tecnologie che vedevano la base Telecom Italia e che poi di volta in volta hanno visto raggiungersi dei soggetti che complementavano le competenze di Telecom Italia ad affrontare il tema di un'unità della Smart City fruibile, no? Dall'altra parte anche dal punto di vista pubblico, perché sulla stessa piattaforma coesistono e integrano tutti i servizi della pubblica amministrazione che sono legati alla capacità di gestione del traffico sul territorio, la contribuzione ai servizi del Comune di Milano, prefettura, questura, servizi di sicurezza e via dicendo, che trovano un'integrazione su questa piattaforma. E questa è la cosa che va salvaguardata, perché ad oggi penso di dire, senza tema di essere smentito, che Milano nella parte dell'Expo rappresenti, in termini inglese, il benchmark, no? Per quelle che sono Smart City in Europa, certo. Più avanzate di quelle che sono un prototipo proprio. Assolutamente, quindi se questo sarà messo sotto stress test elevato, perché ha determinati elementi di funzionamento più complessi di una città normale, perché ci sono degli elementi di sicurezza evidenti da dover salvaguardare, e l'accesso ad esempio al sito espositivo ha le stesse regole, gli stessi standard di un aeroporto, quindi diciamo ci sono regole di controllo e di funzionamento che presuppongono un'efficace integrazione di tutti i sistemi Smart City superiore a quello che normalmente succede in una città. Essendo questo meccanismo messo sotto controllo e sotto stress nel periodo dei nostri 6 mesi, è chiaro che l'eredità che dovremo lasciare è fare in modo che quanto è stato creato e sperimentato lì possa essere poi trasportato, riadattandolo evidentemente, a un meccanismo che possa essere adattato in una qualunque città italiana. Quindi lei dice una prima grande funzione è quella che appunto si avrà nel dopo Expo, avendo testato un oggetto, un prototipo di questa dimensione, di questa complessità, abbiamo un'eredità che è di esperienza e poi è trasferibile in situazioni analogamente complesse. Quindi c'è un dopo Expo che però è agganciato a quello che si è fatto. Ma se dobbiamo così liberamente, qui poi lei, voglio dire, in quanto Expo non è che è qui per dirci che cosa bisognerà fare, ragioniamo liberamente su questa cosa. Però certo, poi quella cosa, questa piattaforma potrebbe essere stimolata di più, potrebbe diventare costantemente anche un prototipo per altre cose, perché immagino poi Costa che adesso fa questo, ma poi no, con iniezioni di idee, no, con altre possibilità potrebbe fare anche di più. Secondo voi è possibile dare dei suggerimenti su quella che potrebbe essere almeno una parte di utilizzo di quest'area, in modo da salvaguardare, da protrarre nel tempo questa esperienza? Costa, e poi sentiamo anche Gallice. Ma allora, suggerimenti è sempre difficile darli, però è sicuro che questa è una grandissima Expo, è una grandissima opportunità perché permette sostanzialmente la valorizzazione di contenuti anche espressi in forma digitale. Ma questo paese non mancano certo i contenuti, questo è un dato no, di fatto. Questo no, certo. Però un'operazione come Expo nel concreto riesce a prendere molti di questi contenuti, probabilmente quelli più interessanti se vogliamo, e a renderli disponibili attraverso il digitale a un numero importantissimo di persone. Questo è quello che si sta già facendo. Un esempio, no? Noi per esempio, partendo da questo concetto, abbiamo basato molto della nostra strategia su Expo sul far collaborare i visitatori sui vari contenuti. Ok, questo è bello da dirsi, poi bisogna concretizzare le cose. Un'idea che ci è venuta in mente, che stiamo realizzando, è quella sostanzialmente di permettere a molti visitatori, ricordiamoci che i turisti in Expo, poi sono tutti, perché per l'Expo è nuova per tutti, quindi per me, anche per gente per me, che arriva un chilometro, io sarò ovviamente turista in Expo, certo, c'è una cosa così particolare, e l'idea di avere una piattaforma, un device completo di tutto, quindi di connettività, di contenuti predisposto con le applicazioni che servono nell'Expo, ma non solo, anche in Milano, e che quindi permettono di fare questa visita. Questa è l'idea che ci è venuta, una sorta di tablet sharing. Ecco, questo tablet sharing ci sembra un modo interessante, perché poi uno arriva nella città, decide senza impegnarsi più di tanto e senza avere fatica di andare a prendersi un dispositivo che gli permette di essere sempre connesso e di vivere tutti i contenuti dell'Expo. Può prenderlo per uno, due, tre, quattro, cinque, sette giorni sostanzialmente. Ecco, questo ci sembra una maniera anche intelligente, fare il, come dire, il tutto compreso che possa aiutare e facilitare la visita all'Expo e non solo. Dico all'Expo perché la nostra aspettativa è che questo modo di lavorare poi finalmente possa diventare un modo di lavorare che vada anche per le persone che continueranno a decidere sostanzialmente di utilizzare questo grandissimo capitale digitale anche dopo l'Expo, siano essi italiani ma siano essi stranieri sostanzialmente. Una maniera che quasi mai è stata fatta, ma sicuramente su questi volumi e con questo stress sicuramente ci vede innovatori, ecco. Quindi ritengo, portando un piccolo esempio, che questo sia qualcosa che può essere rimanere anche dopo l'Expo. Ecco Galli, voi siete anche aperti a proposte che vi possano arrivare per l'utilizzo di quest'area, e quindi forse si potrebbe anche dare il messaggio di elaborare delle proposte che riescono a utilizzare questa potenzialità. Però lei giustamente prima diceva sarebbe anche interessante vedere cosa sarà l'esperienza fatta per avere proposte più avanzate, no? Sì, diciamo le alimenterà e ne aumenterà il numero evidentemente. Adesso intanto non siamo noi quelli che sono, certo, i destinatari, certo, delle proposte, perché di fatto l'Expo e l'ente organizzatore col 31 ottobre finisce quindi, certo. Il vero tema è che quello che noi cerchiamo di fare è di rendere disponibile e di disseminare tutti i concetti, tutti gli elementi, tale per cui sia il pubblico che il privato possano fare al meglio le proprie valutazioni. Quindi anche l'occasione che abbiamo questa sera è importante per realizzare e dare un focus specifico al fatto che questa cosa è stata fatta, quella della realizzazione di una Smart City, che è di fatto probabilmente la più smart oggi esistente al mondo, e che questo sia uno degli elementi di valutazione tale per cui chi pensa cosa dover andare a realizzare all'interno dell'Expo, una volta che l'Expo sarà finito, abbia più gradi di libertà nelle valutazioni e nelle scelte, anche dal punto di vista degli investimenti, perché non c'è dubbio che il grande dell'investimento che è stato fatto, tra virgolette, si ammortizza col fatto che l'Expo è stato realizzato, quindi poi l'infrastruttura nel momento in cui c'è, grazie lì, a Dio, non si leva. No, ecco. Certo. L'altro tema che è importante è che bisogna cercare anche di vedere di valorizzare la capacità di sistema, che spesso se ne parla e poi restano sempre delle parole abbastanza vacue, di realizzarle queste iniziative. Dubai 2020 ha visto con grandissima attenzione la capacità che è stata espressa da questo gruppo misto di pubblico e privato nell'andare a realizzare un'iniziativa così innovativa. Per Dubai questo tema, nel momento in cui avranno la loro esposizione universale, sarà ancora più grosso, perché noi abbiamo un ecosistema che già esiste, e per quanto sarà messo tra virgolette sotto stress dal fatto di ospitare 20 milioni di visitatori, là lo sarà molto di più nel 2020. Non è un caso che intorno al concetto della Smart City si siano sviluppati questa iniziativa specifica, che è quella di E015 che citava prima Costa, che è un modello di scambio di dati in maniera standard, di dati aperti. Quindi la gestione dei dati è chiaro che aiuta il funzionamento di una smart city, le applicazioni sono tante e questa è già un'eredità che abbiamo lasciato. Non è un caso che una parte dei nostri soci pubblici siano già riadattando i propri meccanismi di funzionamento delle tecnologie utilizzando i protocolli e le logiche di funzionamento di E015. Quindi direi in conclusione, vi ringrazio per essere intervenuti in questa trasmissione, il messaggio che diamo è che il dopo Expo più interessante al momento è quello che verrà fuori, e qui invitiamo pubblico e privato, chiunque siano operatori, a capire che devono leggere quello che succederà là, e il dopo sarà il risultato di idee che verranno sulla base di questa esperienza che è unica. Va bene, grazie Andrea Costa, grazie Piero Galli, e magari ci sentiremo per dei dopo, che ne so, forse qualche idea più precisa verrà verso giugno, luglio, incominceremo a fare un piccolo bilancio. Assolutamente, così vediamo come sarà davvero funzionante questo meccanismo. Certo. Grazie ancora, arrivederci. Grazie, buon lavoro. Arrivederci. Buonasera, buonasera. Seguiremo questo dopo Expo tecnologico, e nel frattempo invece buona settimana a tutti e a tutte, ci sentiamo qui fra 7 giorni a Mebius.